ninja. Astronauta ubriaco, è preso dalla malinconia, stanco e malato, dalla terra me ne sono andato via, tra Venere e Marte. Giove e Nettuno, non ho incontrato nessuno, alla ricerca di una canzone d'amore universale, ho scritto e pensato nella mia navicella. Astronauta.